gli eventi sismici moderni hanno radicalmente modificato quella che è l'ottica di progettazione sismica delle costruzioni. E sia la ricerca di soluzioni costruttive sempre più duttili, sempre più con capacità di deformazione e con sempre minore attenzione alla resistenza, quanto la resistenza non è l'aspetto fondamentale quando si parla di sisma. Si deve parlare di capacità di adattamento, capacità di dissipare energia, capacità di assicurare la resistenza nel tempo. In quest'ottica si sta facendo molta attività sperimentale, sia sperimentale di laboratorio sia sperimentale dal punto di vista numerico, analisi numerica, appunto per verificare le nuove tecnologie costruttive come possono aiutare a migliorare la sicurezza sismica del costruito, sia l'esistente che ha necessità di essere migliorato, sia il nuovo. Si parla tanto in questi giorni qui a Madexpo di ricostruzione di edifici dal punto di vista antisismico, anche relativamente alle scuole, agli asili. Ad esempio ho mostrato l'attività sperimentale su nuove costruzioni in legno. Le costruzioni in legno sono costruzioni che sicuramente vanno benissimo in ambito sismico, perché sostanzialmente sono leggere, poi abbinano anche una grande capacità di comfort termico e efficienza prestazionale dal punto di vista termico e acustico. Ovviamente le costruzioni di legno sono delle costruzioni per noi nuove in Italia e sono state sviluppate soprattutto per pensare alla resistenza per carichi verticali, non tanto per la resistenza sismica. Quindi è importantissima la ricerca che stiamo facendo in Italia, perché stiamo abbinando alla tecnica costruttiva del legno, che è tipica dei paesi nord europei, alla capacità di resistenza sismica che dobbiamo dare in Italia. Quindi tutte queste costruzioni che stiamo facendo in legno sicuramente vanno nell'ottica di aumentare la sicurezza sismica della popolazione, e ancora c'è tanto da fare per riuscire a fare sempre di più e sempre meglio. Esistono già dei prototipi quindi che si possono vedere? Dal punto di vista, diciamo, della ricerca strutturale nel campo strutture in legno mi ricorda mi viene in mente l'edificio a 7 piani provato su tavola vibrante in Giappone, interamente in legno, o quello a 3 piani provato a Livalsa in Italia. Quindi prototipi già sperimentati e provati e dimostrati ci sono tutti quanti comportati bene, ovviamente quelli ben realizzati, ben progettati, e quindi sicuramente costruire in legno, costruire bene in legno aiuta alla sicurezza sismica. E ne abbiamo le evidenze sperimentali. Il mercato, da questo punto di vista, come risponde al momento? Il mercato è diffidente verso il mondo delle costruzioni in legno. Alla fine si finisce a parlare di legno perché è la moda attuale, no? E il mercato è ancora abbastanza diffidente per due motivi. Uno è il costo, alla fine, che il costo è ancora elevato perché ci sono poche costruzioni in legno. È evidente che quando il mercato del legno si amplierà, anche il costo è destinato a diminuire. E poi in Italia il mercato è diffidente per il problema della durabilità delle costruzioni, cioè della durata nel tempo. Si vede il legno come materiale deperibile. E sicuramente il legno è più deperibile di un laterizio, noi siamo abituati a questioni di laterizio, o di un calcestruzzo, sempre che laterizio e calcestruzzo siano fatti bene. Credo che, anzi sono convinto, che anche il legno lavorato bene e adattata la costruzione in legno all'ambiente italiano, cioè non copiata la costruzione in legno che è del nord Europa, ma una costruzione in legno adattata all'ambiente italiano, possa durare nel tempo in maniera adeguata. Quando riusciremo a avere queste cose sistemate per bene, ed è qui che tra virgolette i giovani ingegneri aiutano, riusciremo sicuramente a vincere le diffidenze del mercato.